al mio villaggio, sotto il salice del poggio, il mio amor prese coraggio, forte forte mi baciò. Fu quel bacio assai deciso, io non so chi l'abbia inteso, fatto sta che all'improvviso il villaggio si destò. Ma guarda un po', ma guarda un po', quel bacio al buio cosa combinò? Per un bacin d'amor, per un bacin d'amor, uscì abbaiando il cane della zia che svegliò i porcelli della fattoria. Per un bacin d'amor, per un bacin d'amor, scese il fattore armato di fucile, accese una candela, si incendiò il fienile. Ogni sirena diede l'allarme, giunse il plotone dei sette gendarmi. Per un bacin d'amor, per un bacin d'amor, corsero i vigili, corse la cenere, quanto rumor per un bacin d'amor. Per quel bacio galeotto il mio orgoglio fu sconfitto, ma il mio amore vinse all'otto 6 milioni e mi sposò. Fece al sindaco un omaggio sotto il salice del poggio, si schierò tutto il villaggio che in trionfo ci portò. Ma guarda un po', ma guarda un po', qualche comare al solito esclamò: per un bacin d'amor, per un bacin d'amor, faccia la timida, la timorosa, senza aver la dote, nino se la sposa. Per un bacin d'amor, per un bacin d'amor, lei con lo strascico e le damigelle, noi che siamo belle, siamo ancor di pelle. Evviva, evviva, la fatta in testa, più ci son soldi e più bella è la festa. Per un bacin d'amor, per un bacin d'amor, sembra difficile ma è tanto facile trovar la gioia in un bacin d'amor. Per quel bacin d'amor oggi è felice il cuor, ho due gemelli, sono due tesori, gridan tutto il giorno come due tenori. Neppur la notte chiudono gli occhi e il babbo canta cullando i marmocchi. Per un bacin d'amor, per un bacin d'amor, sembra difficile ma è tanto facile trovar la gioia in un bacin d'amor. Per un bacin d'amor, d'amor.